Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente si parlerà e parleremo ancora della legge finanziaria, intanto perché, come vi ricordavo, i nostri GR24 ci sono state anche delle posizioni dei sindacati molto importanti da questo punto di vista, perché sul tema delle destinazioni in legge finanziaria al pubblico impiego e anche sul tema dei pensionati. Questa mattina, come alcuni di voi già sanno, il Presidente del Consiglio Renzi era ospite di Radio 24 nel programma Attenti a Noi Due con Alessandro Milan e Oscar Giannino, e molte delle notizie, che oggi direi quasi tutte, riguardano il Presidente del Consiglio sono arrivate da questa intervista. In primis il giudizio sull'Europa, e quindi dice: attenzione, Bruxelles non è il maestro che fa gli esami, ci può consigliare ma non può dire quali tasse tagliare. E poi altre dichiarazioni sempre in tema di tasse e anche di manovra finanziaria. Per quello che e poi ci sono novità arrivate oggi dalla legge di stabilità, per esempio multa di 500 euro a chi evade il canone RAI, gli sgravi per i neoassunti saranno del 40% fino a 3.250 euro, quindi meno degli 8.000 euro di cui ancora si può avvantaggiare chi fa un'assunzione a tempo indeterminato nel 2015. Ancora i detassati premi di produzione entro i 2000 euro e i premi di produttività entro i 2000 euro sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sostanzialmente pari al 10%. La no tax air dei pensionati salirà dal 2017 e su questo i sindacati si sono espressi, ma soprattutto i sindacati sul contratto della pubblica amministrazione hanno detto sarà una mobilitazione durissima, perché ci sono solo 200 milioni di euro su una finanziaria da 30 miliardi e quindi le risorse messe sono una mancia, una provocazione, non garantiscono un contratto dignitoso per i lavoratori pubblici e vi sarà una mobilitazione durissima. Poi dichiarazioni sulla finanziaria sono arrivate anche da Capri, dove in corso della prima giornata dei lavori dell'appuntamento annuale dei giovani di Confindustria, devo dire che hanno detto: attenzione, la priorità dovrebbe essere tagliare le tasse sul lavoro e sulle aziende, invece il governo ha deciso di alleggerire quelle su 45.000 ville e castelli. Quindi è abbastanza critica la posizione dei giovani di Confindustria. Servono coperture certe per una misura che non tocchi solo piccole e medie imprese o mezzogiorno, o che parta dal 2017. Deve riguardare tutte le imprese da subito. Ancora, nella manovra ci sono 150 milioni di euro per il Sud, sono inutili, questo dicono i giovani industriali, è troppo poco. Dov'è il master plan sul mezzogiorno annunciato ad agosto da Renzi? Questo per quello che riguarda, diciamo, il fronte legge finanziaria. Poi c'è, ripeto, la dichiarazione del ministro Poletti per quello che riguarda sempre la legge di stabilità, ma in questo caso gli esodati, e l'aumento della no tax area per i pensionati scatterà dal 2017. E con la legge di stabilità è arrivata anche la settima salvaguardia per 31.000/32.000 esodati, così si arriva a circa 172.000 esodati, e il ministro Poletti ha detto: in questo senso consideriamo concluso il percorso. E poi ha ricordato l'intervento da 600 milioni e le risorse già esistenti sulla lotta alla povertà per i bambini che crescono in famiglie povere. Allora, su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore. Oggi parleremo di legge finanziaria, ma anche c'è, ricordo, l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia, gli sprechi della pubblica amministrazione e poi l'imprenditore che ha accettato la sfida. Faccio notare che per quello che riguarda la borsa si va a chiudere la giornata in maniera abbastanza piatta: più 0,2% Milano, più 0,4% Parigi, più 0,2% Francoforte, più 0,4% Londra, più 0,17 il Dow Jones, euro su dollaro a 1,1370, Unipol più 4,30, Mediaset più 4, Mediolanum più 2,60, Ubibanca più 1,70, Intesa più 1,30, Mediobanca più 1%. Fronte opposto, Ferragamo di nuovo in difficoltà, Lusso meno 5,5%, CNH Industrial perde il 4%, e ancora devo dire che sul Lusso oggi non c'è solo la Cina, che è il tema della settimana, ma anche il gruppo Hugo Boss, che ha rivisto le stime lanciando un allarme sugli utili. Ecco che per parallelismo calano tutti i titoli del lusso, anche italiani: Tod's meno 1,40%, Moncler contiene il calo allo 0,30%. Tra chi cala segnalo anche Saipem del 3,26% ed Enel Green Power dell'1,13%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo proprio dai 100 secondi dedicati alle parole del ministro Poletti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Grazie, buon pomeriggio. Arriva il Jobs Act per il lavoro autonomo. In sostanza si tratta di un provvedimento che riguarda i 5,5 milioni di addetti del cosiddetto popolo delle partite IVA. Sarà previsto come collegato alla legge di stabilità ed è stato annunciato ieri dallo stesso Premier. La riforma prevede, ad esempio, che gli interessi di mora per i ritardati pagamenti si applicheranno anche ai contratti tra imprese, lavoratori autonomi e tra lavoratori autonomi. Finora non era così, perché questa clausola era applicabile solo nel caso di imprese. Le spese per la formazione, tipo master, corsi, congressi, saranno integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Oggi è possibile scontarle solo fino al 50% del totale. L'indennità di maternità sarà riconosciuta dall'INPS indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività. Sono previsti i congedi parentali, come per qualsiasi lavoro subordinato, 6 mesi entro i primi 3 anni del bambino, con le stesse coperture INPS, a partire dai bimbi che saranno nati il 1 gennaio 2016. Le amministrazioni pubbliche dovranno incentivare poi la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti, anche adattando, così dirà la nuova riforma, i requisiti di bandi e procedure, rendendo più semplice l'acquisizione delle informazioni per questa particolare categoria di lavoratori. Cambia anche il quadro di riferimento fiscale: si alza a 13.000 euro annui la soglia minima entro la quale si applica l'esenzione IRAP. Poi il tetto dei ricavi per rientrare nel regime forfettario sale da 15 a 30.000 euro annui per i professionisti e viene aumentato di 10.000 euro per tutte le categorie di lavoro autonomo. In questo caso si applica un'aliquota unica del 15%. Per le start-up, così come per i nuovi iscritti al regime delle partite IVA, si applicherà temporaneamente un'aliquota al 5%, vale a dire ridotta a un terzo rispetto a quella prevista oggi. Insomma, ci sono tutti gli elementi per considerare queste norme una svolta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sempre in tema di economia italiana, oggi è arrivata anche la Banca d'Italia, che nel bollettino economico ha confermato la ripresa in corso. Anche qui, attenzione, è una ripresa ancora timida, macchie di leopardo, quindi capisco benissimo chi ci scrive dicendo: ma quale ripresa, noi qua non vediamo nulla. È vero, perché è una media, comunque più 0,7%, so che assomiglia un po' a catalano, ma più 0,7% è meglio di un meno 1,3%. Allora, lo 0,7% viene confermato dalla Banca d'Italia oggi, dicendo che comunque potremmo chiudere con un livello più alto dello 0,7%, e conferma che dopo anni di flessione della domanda interna, cioè dei consumi degli italiani, per la prima volta si stanno consolidando i consumi privati, e c'è anche un graduale riavvio degli investimenti delle imprese. E poi Banca d'Italia fa un calcolo e dice: attenzione, utilizza la regione Veneto per vedere quanto hanno contribuito all'aumento degli occupati, al calo dei disoccupati, da un lato il Jobs Act, che è entrato in vigore il 7 marzo, dall'altro invece la decontribuzione, che è entrata in vigore col 1 gennaio e finisce il 31 dicembre, mentre il Jobs Act resta. Sono due cose diverse. Poi c'è chi ha assunto con il Jobs Act sfruttando anche la decontribuzione, ma c'è anche chi ha assunto a gennaio o a febbraio senza Jobs Act, solo sfruttando la decontribuzione, che vuol dire che l'imprenditore risparmia fino a 8.000 euro l'anno di contributi per 3 anni, perché la differenza viene messa dallo Stato se assume a tempo indeterminato. Allora, la Banca d'Italia oggi, guardando come esempio i dati del Veneto, ma dicendo che queste valutazioni sono applicabili all'intero paese Italia, scopre che un terzo dei nuovi occupati è dovuto al Jobs Act e 2/3 dei nuovi occupati sono dovuti proprio alle invece alle decontribuzioni. E poi la Banca d'Italia dice la stessa cosa che diciamo molto modestamente noi e anche l'Unione Europea, cioè che la riduzione della pressione fiscale più efficace per l'economia è quella che va a ridurre il carico fiscale sui fattori produttivi. Tradotto vuol dire su IRPEF, IRES, cioè sul fisco che pagano i lavoratori e pagano le imprese, cioè su chi lavora e chi dà lavoro. Lo dico per uscire da questa polemica, nel senso che poi il governo ieri l'ha chiarito, il premier Renzi ha detto ma la scelta è politica, io levo l'IMU e la TASI per dare fiducia al paese. Benissimo, scelta politica. Non è una scelta economica, nel senso che tutti quelli che vanno a vedere cosa serve un'economia per farla ripartire dicono che serve la riduzione fiscale, però non delle tasse sulla casa ma delle tasse sul lavoro. Poi il governo sceglie un'altra cosa per altri motivi di carattere politico, di consenso, di fiducia elettorale, va benissimo. Però basta capirsi su questo. Poi c'è l'Istituto di Ricerca Prometeia che addirittura prevede nel 2016 una crescita dell'Italia allo stesso livello della Germania. Io tifo, lo dico, non me ne frega un cavolo, renziano non renziano, tifo perché sia vero, sarebbe veramente un sogno, anche per vari altri motivi, un po' di, non dico di sfida calcistica, ma insomma, dopo quello che abbiamo passato in questi anni sarebbe un sogno, abbiamo un sogno nel cuore. Allora, vedere che l'Italia cresce come la Germania, magari appunto dell'1,2, non solo perché la Germania rallenta, ma perché noi cresciamo un po' di più. Perché vorrebbe dire che chi si è basato solo sulla crescita fuori dall'Europa sta pagando le conseguenze del rallentamento cinese, brasiliano e quant'altro, e vuol dire che invece poi l'Italia, se riesce a ripartire, ha le sue potenzialità. Questo lo stima comunque Prometeia, dice nel 2016 potremmo arrivare a un PIL tra l'1% e l'1,5%, un ritmo che non si vedeva dagli anni 90. L'attuale fase di ripresa, continua Prometeia, è una delle più ricche per i posti di lavoro creati degli ultimi 25 anni. Il commercio con l'estero fa più 1% ad agosto rispetto all'anno precedente, però c'è un calo congiunturale, qui guardiamo soprattutto i mercati extraeuropei e lì la sofferenza si inizia a notare, meno 8% rispetto a luglio, nel senso che è anche il surplus commerciale, cioè la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, resta inattivo, però cala a 1 miliardo e 900 milioni di euro. Questo è dovuto soprattutto al fatto che stiano rallentando le famose economie emergenti. Allora, poi c'è la notizia, che in realtà la notizia è di ieri, però insomma la riusciamo a dare solo oggi perché ieri abbiamo avuto a che fare con tutta la legge di stabilità. Però faccio notare che il commissario all'Expo Giuseppe Sala, il commissario unico all'Expo, ha annunciato ieri che l'Expo Milano ha superato i 20 milioni di visitatori. Oggi l'incontro con Ban Ki-moon, le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ne hanno parlato già il GR24, ha detto Sala: non è che i numeri siano il fattore principale, ma sono molto soddisfatto, sono stanco ma va bene così. Devo dire che anche qui, così come tutto il paese dovrebbe tifare per una crescita all'1,2 l'anno prossimo, a mio avviso tutto il paese deve tifare perché l'Expo confermi o si riveli un successo. Cioè, chi è che si avvantaggia se per caso l'Expo, o chi si sarebbe avvantaggiato se l'Expo fosse stato un insuccesso? Nessuno. La stampa tedesca o britannica che ci diceva: ecco i soliti italiani. Allora, se facciamo una cosa fatta bene, ma perché bisogna dire che non è vero, che è una cavolata, che sono balle, no? Ma tifa Italia e basta. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con la nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. La classifica della settimana. Oggi vi anticipo già che al primo posto abbiamo una nemesi, però non voglio svelare il segreto. Allora, partiamo da quello che sta capitando purtroppo la sanità ci sta fornendo una marea di spunti in questo periodo. Da quello che sta capitando all'ospedale di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, sono dovuti intervenire i PM della Procura, Roberto Lenza e Giuseppe Cacciapuoti, che erano tra l'altro in ospedale per questioni personali e si sono ritrovati nel bel mezzo di quella che potrebbe essere una notizia di reato, tant'è che hanno aperto un fascicolo per cercare di far chiarezza. Che cosa è successo? I due magistrati, pensa un po', erano in ospedale appunto per controlli e visite loro e si sono accorti che tutti gli interventi previsti nell'ospedale erano stati bloccati. Dici, perché? Che succede? Un guasto? No. Erano in malattia tutti gli infermieri delle sale operatorie a casa, immagino, non in ospedale, perché sennò fai una malattia in un ospedale in cui non operano ti prendi anche un rischio. Allora, cosa succede a quel punto? Che viene aperto un fascicolo della procura, arrivano i carabinieri in ospedale e in borghese in divisa, vanno su e giù da un piano all'altro, controllano tutti i locali operatori per verificare la presenza del personale. Mentre controllano la presenza del personale, i due magistrati incontrano i direttori delle unità che avrebbero dovuto eseguire gli interventi per capire come cavolo organizzavano queste sale operatorie. Si sono chiusi per ore nella stanza del primario, l'ottorino Remo Palladino, per ricostruire la dinamica dei fatti che ha portato al blocco totale delle sale. I vertici ospedalieri hanno avviato un'inchiesta interna e inviato gli ispettori a casa di quei quattro infermieri assenti dal lavoro. All'Umberto I dicono ma questa è colpa dell'occupazione a oltranza della sede ASL di Salerno, dove i sindacati chiedono ai dipendenti di non svolgere lo straordinario visto che poi non verrà pagato. Insomma, aspettiamo con ansia di capire come si fa a bloccare l'attività operatoria di un ospedale, ma sarà un dettaglio quanto operi in un ospedale, vai. Andiamo dal quinto al quarto posto, perché abbiamo di nuovo a che fare con un ospedale, in questo caso è l'ospedale di Bari, l'ospedale San Paolo, dove in questo caso sono gli operatori che denunciano assieme al sindacato che cosa? Anche qui dettagli. Il fatto che gli strumenti operatori, bisturi e il resto, siccome sono rotte la maggior parte delle macchine lavaferri o non ne funzionano solo tre, come dice il direttore della ASL di Bari, Vito Montanaro, le lavaferri sono tre allo stato insufficienti per la mole degli interventi, una è guasta, una è appena arrivata, la terza che funziona a intermittenza. Da poco abbiamo acquistato una nuova lavaferri, ma ci dicono che non basta, procederemo a recuperarne ancora un'altra. Dal prossimo anno però tutto il reparto sarà ristrutturato dopo 30 anni, però per rifare i lavori bisognerà aspettare il bilancio 2016, ci sono 10 milioni di euro per rimettere a nuovo il cuore dell'ospedale, ma mentre aspettate 10 milioni di euro non si può comprare una lavaferri in più. Lo dico perché a questo punto che cosa succede? Che i bisturi e tutti gli strumenti medici vengono puliti a mano nei lavandini con comuni spazzolini in acciaio prima di essere sterilizzati, cioè non so, poi denunciano pazienti portati in barella direttamente nei reparti, sarà anche un modo per velocizzare l'intervento, ma faccio notare che si mette a rischio il rischio di contaminare gli ambienti operatori, appunto macchine lavaferri guaste, operatori costretti a pulire il kit per gli interventi addirittura a mano. Li lasciamo in ammollo con prodotti disinfettanti, noi stessi, raccontano di loro, ci siamo procurati questi spazzoloni da un normale negozio di articoli per la casa. Il direttore della ASL, voglio dire, ho capito che lei aspetta il piano, i 10 milioni, ma tra i 10 milioni per rifare l'ospedale e i dipendenti che vanno a comprare gli spazzoloni e i detersivi al supermercato. Non c'è una via di mezzo possibile, non si riesce ad avere un budget per comprare qualche macchina lavaferri? Chiedo, non lo so. Dopo queste prime due notizie sulla sanità, dopo il metro e la pubblicità, purtroppo invece andiamo di nuovo sui costi dei consigli regionali, dei consigli comunali, i premi ai dirigenti e poi al primo posto la nemesi a cui facevo riferimento. Però intanto andiamo col meteo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta e allora andiamo al terzo posto, qui iniziamo con i consigli, prima comunali, poi regionali, poi arriviamo proprio alla funzione pubblica, come si chiamava una volta il ministero. Partiamo dal comune di Foggia. Ce ne eravamo già occupati in realtà, perché c'era questa vicenda. Allora, voi sapete che i consiglieri comunali hanno due problemi, non tutti, ci sono consiglieri comunali che guadagnano pochissimo, che lo fanno quasi gratis nei piccoli comuni. Ma abbiamo spesso denunciato nelle grandi città due cose: il numero di sedute, cioè se tu, ci sono consiglieri che fanno 27 sedute in un anno, in un mese, una cosa pazzesca, ma manco Stakhanov. Perché? Perché ogni volta che fai una seduta di un consiglio o di una commissione becchi un gettone e poi c'è la pratica di arrivare, firmare e andarsene. E poi c'è anche un altro fronte di spesa per i cittadini, che i consiglieri comunali, quando sono distaccati da altri lavori, e il comune che deve dare rimborsi alle aziende, alle imprese. Era il caso per esempio del consigliere di Foggia Pasquale Cataneo, che è dipendente delle ferrovie a Bari e il cui rimborso, per cui i soldi che dà il comune di Foggia alle ferrovie dello Stato, perché lui essendo consigliere si assenta dal lavoro, è pari a 5.000 euro lordi al mese, più ci sono i migliaia di euro che lui prende come presenza. Allora, che cosa succede? Che a Foggia avevano deciso di fare un po' di ripulisti su questo e tagliare i rimborsi, ridurre, c'era una regola per cui bisognava fare massimo due consigli comunali, adesso devo trovare, al non più di due, per cui non rendere pletorica il numero delle riunioni. Allora, che cosa è successo? È passato all'improvviso un emendamento dentro il regolamento comunale che è stato subito ribattezzato pro Cataneo. Perché l'ha voluta lui, il consigliere di centrodestra. Che cosa prevede? Prevede semplicemente che non vi sarà nessuna riduzione dei costi all'orizzonte, nel senso che i rimborsi non vengono tagliati di un centesimo, nonostante il piano di riequilibrio pluriennale dell'ente deve portare a una riduzione dei costi e della spesa. Hanno bocciato l'emendamento proposto dal consigliere di Fratelli d'Italia Maniero, dove si chiedeva di fissare solo due riunioni settimanali e nel pomeriggio, magari anche fuori dall'orario di lavoro, se uno ce la fa, delle commissioni. Questo perché? Perché questi cavolo di gettoni di presenza costano al comune di Foggia 700.000 euro l'anno. Voi direte, non è tanto? No, è tanto. 700.000 euro solo di rimborsi a tutti i datori di lavoro che devono assentarsi ogni mattina dalle 11.15 alle 13.15. Avessi fatto nel pomeriggio fuori dall'orario di lavoro, non dico che saresti arrivato a zero, ma da 700.000 scendevi parecchio. Poi ne fissavi solo due massimo a settimana, scendevi ulteriormente. Ripeto, non sono tanti 700.000 euro, può essere che a Foggia non siano tanti 700.000 euro, ma ve ne risparmiate anche 500.000, magari qualcosa da fare con 500.000 riuscivi. Ovvio che non si può fare il ragionamento compravi i lavabisturi per l'ospedale, no, non funziona così la pubblica amministrazione, ma magari qualcos'altro il comune di Foggia faceva, magari per le scuole, per le materne, non lo so. Siamo sicuri che Foggia come la Svizzera non serve mettere 500.000 euro da nessuna parte, chiedo. Al secondo posto andiamo dal nostro mito, perché ci fornisce metà rubrica quasi, la regione Sicilia, eccola qua, il tecnico era preoccupato, non poco ne parlavamo. Allora, dunque, che cosa è successo? Che il Movimento 5 Stelle ha chiesto all'Assemblea regionale siciliana, che lo sapete per statuto funziona come un Parlamento, infatti i suoi sono deputati, di capire in base a che cosa vengano premiati i dirigenti regionali. Ora io faccio notare che anche qui non saranno tanti soldi, ma i premi ai dirigenti della Regione Sicilia costano alle casse della Regione Sicilia, che ha un deficit spaventoso, 10 milioni di euro l'anno. Anche qui magari potete fare qualcos'altro con questi 10 milioni di euro. Allora, è venuto fuori, questi sono i premi per le indennità di risultato dati a dirigenti che hanno stipendi in media di 7.000 euro, in alcuni casi arrivano a 12.000, perfino a 17.000 euro lordi. Tant'è che per il 2015, al di là dei tagli, su 10 milioni sono riusciti a risparmiare solo 500.000 euro. Voi direte, beh, già qualcosa, mica tanto, perché si tratta soprattutto dei pensionamenti, per cui alcuni dirigenti sono andati in pensione e almeno quelli non beccano il bonus, l'indennità di risultato raggiunto. Allora, tu dici, fin qua tutto bene, stimoliamo i dirigenti, oddio, sono un po' tanti nella Regione Sicilia. La cosa interessante è capire in base a che cosa tu ottieni l'indennità di risultato. Beh, pensate che tra le tappe significative della scalata al premio, non lo dico io, lo dice il Movimento 5 Stelle, è venuto fuori che c'è l'utilizzo della posta elettronica, della mail, l'utilizzo di internet. Se poi usi internet e la posta elettronica, sei a un passo da Bill Gates, tra Bill Gates e Zuckerberg. Poi la capacità di protocollare e archiviare le pratiche, cioè non di bruciarle o di buttarle nel cesso. Se riesci a protocollarle e archiviarle e non li usi perché balla al tavolo, ottieni il premio di risultato. Beh, se capisci come funziona la posta elettronica, ottieni il premio di risultato. E poi l'altra cosa pazzesca è che i premi vengono dati a tutti. Deve entrare in funzione l'organismo indipendente di valutazione, ma in attesa che entri in funzione, chi valuta i dirigenti, i loro superiori, e hanno promosso tutti in massa per la regola cane non morde cane. Oh, ultimo posto di questa graduatoria, vi assicuro che è una fatica anche per me, non solo per voi ascoltarla. Primo posto, dicevo, è una nemesi, e adesso scopriamo chi oggi guadagna il podio della poco invidiabile classifica di Focus Economia. And the winner is la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Che cavolo fa? Beh, la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione è vittima di che cosa può essere vittima la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, se dico che si tratta di una nemesi? È vittima della pubblica amministrazione. E del resto, se sei la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, diciamo, ti manca solo essere vittima della pubblica amministrazione. Che cosa è successo? Qualcuno ricorderà che nel 2012, il principio era anche giusto, si decise di istituire l'equivalente italiano dell'ENA. Cos'è l'ENA in Francia? È una scuola prestigiosissima su cui si regge buona parte dell'efficienza francese, visto che lì è tutto un prefetto, tutto centralizzato, dove formano i dirigenti della pubblica amministrazione, ma li formano veramente, tant'è che questi partono da lì, poi fanno carriera dirigenziale magari nelle prefetture, nelle varie regioni, poi arrivano ai ministeri e sono tutti, questo è riconosciuto a livello mondiale, che l'ENA sia una delle migliori scuole al mondo per formare la pubblica amministrazione, sono tutti specializzati e qualificati. Allora l'Italia giustamente dice, sai che c'è, facciamo anche noi la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Nel 2012 viene fatto un concorso che prevedeva che venissero assunti in ruoli dirigenziali 26 dirigenti. Questo era un numero non dato a caso, la ricognizione arrivava dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Arrivano 10.000 domande, ne vengono selezionati 4.000 di candidati, anzi alla prova preselettiva. C'è una durissima scrematura, quindi altri 4 giorni di esame, quindi col tempo che questi candidati hanno dedicato. Di questi 4.000 vengono finalmente selezionati i 26 che dovrebbero poi diventare dirigenti. Fin qua tutto bene, come diceva quello cadendo dal grattacielo, gli chiedevano come va, e fin qua tutto bene. Qual è il problema? Poi loro iniziano il corso. Dov'è che fanno il corso? Alla Reggia di Caserta, perché una delle sedi della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica è proprio all'interno della Reggia di Casella. E il vitto e alloggio però è totalmente a carico degli studenti, questo è importante, per i 9 mesi di corso. Allora, che tra l'altro la scuola spende per retribuire i professori 2 milioni e 700 mila euro l'anno. Voi direte, tanto poco. È esattamente quanto spende l'ENA a Parigi. Allora, a parte il fatto che è l'ENA ed è come paragonare, vabbè. Ma il problema è che l'ENA con 2 milioni e 700 mila euro non solo rappresenta l'eccellenza mondiale della scuola di pubblica amministrazione, ma forma 90 studenti, non 26. Qui sei agli albori, devi ancora dimostrare se sei bravo, però intanto costi come l'ENA, l'importante sono i costi, e ne formi un terzo, meno di un terzo. E tra l'altro costa la metà complessivamente, 21 milioni di euro, ecco perché si è beccata al primo posto. L'ENA ne costa 42, ma formi un terzo degli studenti, quindi costi comunque più della prestigiosissima ENA. Cioè, come se io domani fondassi un'università, no? E dicessi, vabbè, il mio modello è il costo di Oxford. Ho capito, un attimo, intanto diventa Oxford e poi vediamo se giustifichi i costi. Non è che la prima cosa che fai ti porti i costi a livello di Oxford o di Harvard. Comunque, che cosa è successa? I 26 vincitori vincono il quarto concorso. Si è concluso a luglio del 2014, selezione rigorosissima. E dove vengono messi? Da nessuna parte. Perché il risultato di tutto questo è che i 26 che si sono pagati di vitto alloggio, i cittadini italiani che hanno pagato 21 milioni di euro l'anno questa cavolo di scuola, beh, lo Stato non riesce a collocarli perché ne ha assunti 9 su 26 a casaccio, tra l'altro pescando nella graduatoria finale, cioè gli ultimi posti, non i primi, che è un sistema che è perfetto nella pubblica amministrazione, senza seguire l'ordine del merito. Gli altri 17 sono finiti in coda, devono aspettare che vengano riassorbiti tutti i dipendenti in uscita dalle province, non sto scherzando. Cioè hai fatto tutta sta scuola con questi spesi per metterli in graduatoria sti poveretti, che devono aspettare però che vengano riassorbiti i dipendenti, non i dirigenti, in esubero dalle province. Beh, grandissima scuola della pubblica amministrazione. È proprio una scuola su come funziona la pubblica amministrazione, più che la scuola per formare i dirigenti della pubblica amministrazione, è la scuola che ti insegna come funziona la pubblica amministrazione. Se lo sanno in Francia vanno in confusione, però noi siamo sempre un passo avanti, siamo sempre 2.0, anche con le scuole di formazione dei dirigenti pubblici, traffico e poi l'imprenditore che ci mette un po' di fiducia. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presento Focus Economia. Allora, va bene, dai. Capolavoro, sì, questa della scuola, però purtroppo vanno raccontate queste cose, cioè non so se il mitico Michael Martone insegna a Lena, ma non c'entra in questo caso, mi chiedono gli ascoltatori, è pazzesca questa cosa, dai. Tra l'altro su un'operazione giusta, perché noi avremo bisogno di fare come la Francia e di formare e di, anche per rincentivare i giovani, dire la pubblica amministrazione non è tutta una cosa da buttare via, c'è grande qualità anche là dentro, facciamo una scuola di formazione professionale, post laurea, di selezione, 10.000 hanno scritto, 4.000 si sono presentati per 4 giorni e gli altri 29 si sono pagati per un anno rete, vitto e alloggio, e li prende in giro in quel modo. Però i professori pagatissimi. Poi andiamo a vedere chi erano i professori. Adesso mi girano anche le scatole. Andremo a vedere chi erano i docenti in corso a Caserta della scuola di pubblica amministrazione. Perché scommetto che troviamo, visto che siamo così bravi a pagare come in Francia, ma solo quello che riusciamo a fare, andiamo a vedere chi insegnava in quella scuola di pubblica amministrazione. Perché qualcosa non torna. Allora, diamo invece un po' di entusiasmo, di elemento positivo. Paolo Franceschetti, amministratore delegato di Solwa SRL, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dove siete voi? Vicenza. Ma che cosa fate a Vicenza? A Vicenza noi siamo un'azienda che meccanica prettamente, che fa impianti di depurazione dell'acqua con energie rinnovabili e più in generale siamo esperti di estrazione di acqua da sostanze umide che vanno dai fanghi piuttosto che il percolato di discarica, piuttosto che il frutta e verdura. Quando è che siete nati? Allora, noi siamo nati nel 2012. In piena crisi, quindi. In piena crisi, abbiamo scelto il periodo migliore per iniziare. Beh, no, può anche essere che insomma, proprio nelle crisi che delle volte vengono fuori le idee. E che cosa, in quanti siete partiti inizialmente? Come allora, siete partiti? Noi siamo partiti in sei, eravamo sei soci che ci siamo autotassati per poter avviare la nostra attività. Con il sistema di depurazione delle acque ad energia solare e siamo riusciti ad avviarci nel primo anno e recuperare dei fondi per poter mantenere l'attività in una fase iniziale che è sempre critica per tutti. Ecco, voi tra l'altro avete vinto il premio Marzotto, noi lo seguiamo da sempre, il premio Marzotto perché è un premio che si dà, sono finanziamenti a fondo perduto per le start-up, per le imprese nuove che hanno un carattere innovativo. Vi è servito? Beh, decisamente sì, avere una iniezione finanziaria importante come il premio Marzotto, nonché e soprattutto la nomea che deriva da questo premio ci ha permesso di avere una serie di contatti, un ventaglio di contatti importante e essere riconosciuti anche a livello nazionale e non solo, anche internazionale come azienda startup innovativa, che ci ha permesso anche di sopravvivere negli anni successivi, ovviamente avviando quel volano economico necessario alle attività. Ecco, poi dal 2013 avete iniziato a sviluppare anche un rapporto di collaborazione con l'Università di Venezia, ho capito bene? Esattamente, nel 2013, verso la fine del 2013 siamo diventati spin-off dell'Università di Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci ha dato anche quel timbro, se vogliamo dire, di legittimazione dal punto di vista tecnico delle nostre idee, nonché siamo diventati idea per lo sviluppo dell'umanità secondo le Nazioni Unite e abbiamo vinto anche altri premi come innovatori dell'anno secondo l'MIT di Boston. Allora, sì, all'MIT di Boston. Quanto fatturate adesso e quanti siete? Allora, attualmente siamo in tre, siamo rimasti tre dipendenti, che fatturiamo intorno ai 300.000 euro all'anno in questa prima fase, anche se dal 2015, dal 1 gennaio 2015 è entrato a far parte della compagine societaria una grossa azienda che si chiama Santex Group, che è nel settore del meccanotessile. Cioè vi ha messo i soldi Santex Group? Esattamente, ed è entrato in capitale sociale. E ci ha permesso adesso di fare un salto di qualità che si è avviato nel 2015, che si porterà avanti con la creazione di nuovi macchinari, in particolar modo nell'essiccazione e combustione dei fanghi derivanti dalle fognature. Sì. E per quindi accrescere il nostro sia fatturato che allo stesso tempo il nostro plafond di prodotti. E il fatto che Santex sia entrata dentro fa sì che voi vi avvaliate anche dei dipendenti, cioè della struttura di Santex, o sono due cose distinte? Sì, in effetti abbiamo iniziato questa collaborazione molto stretta, una cosa un po' particolare che in Italia non è molto diffusa, si spera che possa aumentare, cioè siamo stati adottati da parte del gruppo e questo ci ha permesso di avere a disposizione tutto il potenziale ingegneristico, commerciale, finanziario e allo stesso tempo anche di acquisti, nonché di immobili quali capannoni per la produzione dei nostri macchinari. Allora, ultima domanda che ho per lei, quanto ho? Un minuto, rapidissimo. Senta, chi vi ha dato una mano l'abbiamo capito, c'è Fondazione Marzotto che vi ha premiato, l'Università di Venezia, poi il privato come Santex che vede l'idea e entra col capitale. Con le banche com'è andata? Con le banche è stato un po' più complicato, abbiamo provato a richiedere dei finanziamenti agli istituti di credito, ma con grosse difficoltà, in quanto non avevamo queste garanzie come immobili di proprietà piuttosto che macchinari che ci permettessero di avere un finanziamento. Non avevamo il classico base materiale per poter richiedere un finanziamento, quindi abbiamo dovuto evitare quella via e perseguire la via del ricerca di finanziatori privati. Oh, in bocca al lupo. I dipendenti quanti sono? Tre. Io spero che li raddoppiate il prossimo anno. Grazie. No, noi puntiamo a triplicarli. Come a mio. Triplicarli, bravo. Grazie. Bocca al lupo a lei e a tutti i dipendenti. Paolo Franceschetti, amministratore delegato di Solvo SRL. Vede che poi questo mi rimette di buon umore, ma non perché siano, perché sono, è un'Italia positiva questa. Ci stanno scrivendo alcuni dei 17 che hanno fatto il concorso della ENA all'italiana, della, vogliono parlare adesso, vediamo se riusciamo a raggiungerli. Intanto oggi era 24, poi vediamo se riusciamo a recuperarli. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso dovremo fare la borsa e poi le reazioni alla legge finanziaria, però visto che al primo posto della nostra poco invidiabile classifica degli sprechi della pubblica amministrazione oggi abbiamo messo la scuola superiore di formazione della pubblica amministrazione, vittima della pubblica amministrazione, e con una storia allucinante, abbiamo appena raccontata, 21 milioni di euro è costata, un concorso dove parteciparono 10.000 persone, 4.000 in preselezione, ne vennero presi 26 di vincitori, e 21 milioni di euro l'anno con lezioni nella Reggia di Caserta, un costo identico a quello della mitica ENA di Parigi, l'École Nationale d'Administration, solo che l'ENA non ne formava 20, non ne forma 26, ne forma 90. E tra l'altro faccio anche notare che il costo dei professori è stato di 2 milioni e 700 mila euro l'anno, esattamente quanto l'ENA, ma anche lì per 90 studenti invece che i 26. Che cosa è successo? Lo riassumo per chi si fosse appena messo in collegamento, che dopo tutta questa trafila, questi costi, l'idea giusta di formare i dirigenti futuri della pubblica amministrazione, di questi 26, 17 sono ancora a casa, solo 9 e li hanno presi dalla parte bassa della graduatoria, sono stati messi in alcuni dipartimenti della pubblica amministrazione e gli altri 17 devono aspettare di essere riassorbiti dopo, devono aspettare che vengano riassorbiti i dipendenti in uscita dalle province. Ora, nel raccontare questa storia assurda, intanto abbiamo scoperto che i docenti, perché sugli stipendi dei docenti siamo in linea con la Francia, sul resto ma neanche col binocolo. Beh, c'era Michel Martone, l'ex vice ministro del lavoro, quello che disse che chi non si era laureato entro i 26 anni, 28 anni era uno sfigato, poi scoprimo che lui a 26 aveva già la cattedra, vabbè, piccolo genio. Allora, che aveva 60.000 euro di compenso. Poi c'era il consigliere parlamentare in pensione Marcello Degni, identico compenso, il dirigente di ricerca dell'Istat Fisio Gonario Espa, 100.000 euro di compenso, ma tutto bene. Cioè, Sandro Mamelli, 135.000 euro, Alberto Heimler, già direttore della centrale dell'autorità garante della concorrenza del mercato, 170.000 euro, il dirigente dell'INAIL Angela Razzino, tutto bene. Il problema è che questi qua, dopo tutta questa trafila, sono ancora a spasso. Ci ha chiamato una ora, mentre eravamo in diretta, una di questi 17 su 26, che non mi sembrava una cifra enorme, Daniela Diamanti, buonasera. Buonasera. Se ho capito bene, lei ha fatto, era dei 10.000 che hanno fatto domande, i 4.000 che ha fatto la preiscrizione. Esattamente. E poi ha fatto il 300 che hanno fatto i preiscritti su 8 elaborati. E poi alla fine i 26 che hanno frequentato e vinto il terzo corso concorso. Voi vi pagavate l'alloggio e il vitto, giusto? Sì. Okay. Sì, sì. Diciamo che è prevista una borsa di studio per chi non lavora di 1.500 euro, ma l'intero vitto e alloggio è a carico del partecipante. Però uno dice faccio uno sforzo economico perché questa è una cosa seria, si vanno a formare i dirigenti della pubblica amministrazione e hanno detto che siamo in 26 perché la cifra non nasceva a cavolo nasceva da un esame proprio del Dipartimento. Da una ricognizione da una effettuata ricognizione... dal Dipartimento della Funzione Pubblica, esatto. Ecco, che ne è di lei? Guardi, onestamente non so cosa dirle, nel senso che avendo la fortuna di essere già funzionaria pubblica, sono tornata ovviamente al rango di funzionaria, non di dirigente, nella mia amministrazione di origine, senza però avere avuto nessuna notizia da parte del Dipartimento, in via ufficiale o ufficiosa, circa la mia futura collocazione. Vale a dire, sono diciamo in attesa di incarico e purtroppo anche a seguito di numerose richieste non abbiamo avuto, io come gli altri 16 colleghi ancora non assunti, nessun tipo di informazione formale circa la tempistica della nostra assunzione. Ma è vero, che i 9 che hanno piazzato, cioè che sono stati assunti dallo Stato, non erano i primi della classifica? Guardi, è vero, perché tendenzialmente si è proceduto per amministrazioni, cioè da quello che noi abbiamo intuito anche rispetto alle prassi dei concorsi precedenti, il nostro era diverso per normativa, sono stati presi coloro che in un esame intermedio avevano scelto un'amministrazione in grado di assumerli presto. Per tutti gli altri questi tempi si sono dilatati fino a che adesso informalmente, ripeto, perché purtroppo, e anzi questo è anche un appello, non siamo mai stati ricevuti ufficialmente dalla Funzione Pubblica, anche se lo abbiamo chiesto. Comunque dicevo, i 9 che si sono trovati nella condizione di avere già un'amministrazione che poteva prenderli sono entrati, e gli altri pare che dovranno aspettare che vengano riassorbiti tutti i provinciali, malgrado la nostra graduatoria sia precedente rispetto alla legge di stabilità a cui si fa riferimento. Quindi è davvero una situazione un po' paradossale. Sì, infatti io vi ho messo al primo posto perché vi ho chiamato nemesi. Di cosa possono essere, di cosa può essere vittima la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione? Beh, della pubblica amministrazione stessa. Sì. Senta, ma com'era questo corso di formazione? Guardi, il corso è molto impegnativo, ovviamente ci sono moduli che hanno un approccio più tradizionale, frontale, moduli invece più innovativi, quindi poi ciascun allievo ha avuto la propria valutazione circa le singole modalità. Le dico onestamente, secondo me l'idea è molto buona, tanto è vero che io personalmente ho partecipato con enorme fiducia. La procedura è dura, trovo sia anche molto trasparente nella selezione, ed è un'opportunità, cioè il punto non è che il modello... No, ma guardi, l'ho detto prima in diretta che era giusta l'idea e siamo contenti se lei ci dice che la qualità, diciamo, dei corsi complessivamente era buona, era giusta l'idea, quindi il punto non è spendere 21 milioni di euro in maniera sbagliata, l'idea di formare i dirigenti in futura pubblica amministrazione sarebbe una chiave di volta, il problema è che poi non venite assunti, non venite messi nella pubblica amministrazione, cioè è l'ultimo miglio che ci frega sempre. E tra l'altro parliamo di numeri molto piccoli, perché a fronte di un paese che ha veramente vacanze in organico molto, molto nette, pensiamo solo alla vicenda delle agenzie fiscali, ma non solo. Infatti, abbiamo l'Agenzia delle Entrate bloccata da funzionari che operavano come dirigenti e non lo erano, ne abbiamo parlato molte volte. Vabbè, ma notizie, insomma, fra un anno, 2 anni, 3 anni, non lo so, no, chiedo. Allora, purtroppo non abbiamo, le ripeto, questo le faccio, guardi, le chiedo di fare da tramite per un appello ad avere alla ministra Madia. Alla ministra Madia, affinché ci dia qualche notizia certa, fondata sui tempi della nostra assunzione. Perché davvero purtroppo non abbiamo mai ricevuto risposta neanche alle richieste di incontro, di chiarimento. E, guardi, ripeto, volentieri giriamo, adesso non vorrei che diventasse una casella questo programma, però volentieri giriamo una casella postale, volentieri giriamo la richiesta al ministro Madia, adesso sarà come sempre, i vari ministri sono ospiti ciclicamente dei nostri programmi, la giriamo volentieri e seguiamo la vicenda. Lei ci tenga aggiornati, però facciamo anche una cosa, se per caso le arriva una comunicazione ce lo dica, così almeno una notizia positiva in questa valle di lacrime degli sprechi della pubblica amministrazione riusciamo a darla. Guardi, io me lo auguro tantissimo per noi. Quanti ovviamente anni ha lei? Per il paese. 32. Non si chiede mai una donna, però mi sembrava giusto. No, vabbè, a una pubblica funzionaria, a una civil servant si chiede. Vabbè, adesso va bene, stiamo buoni qua, in bocca al lupo, buon fine settimana, grazie mille, arrivederci. Assumiamo in radio, spigliatissimo, bravo. No, scherzo, la battuta la assumiamo in radio, non uno scherzo, perché sennò veramente diventa un centro di collocamento. Allora, traffico, poi la borsa e la legge finanziaria. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Focus Economia. 18 e 17 minuti, la borsa oggi giornata priva di grandi spunti, mezzo punto percentuale di rialzo sia Milano che Parigi che Francoforte, Londra più 0,60, di nuovo in difficoltà il lusso, ma soprattutto Ferragamo oggi, meno 5,5% dopo l'allarme utili di Hugo Boss, che ha rivisto le stime, appunto ha messo in guardia sugli utili più bassi delle attese, scendono anche scendevano perché poi in realtà ha recuperato molto Moncler, che ha chiuso alla fine invariata, e gli altri titoli del lusso si sono ripresi tutti quanti nel finale, penso a Luxottica più 0,50%, appunto accensione fatta per Moncler, Ferragamo, Yux Net-a-Porter più 0,35%, Telecom Italia un po' in debolezza, meno 0,70%, l'autorità argentina per le telecomunicazioni ha bloccato il passaggio del 68% di Sofora Telecomunicaciones, la holding della controllata di Telecom Italia a Fintech, era un'operazione chiesta, è stata bloccata. Bene invece Mediaset, ci sono segnali di un risveglio della raccolta pubblicitaria e il mercato è positivo sul titolo, più 4%. Bene anche Unipol, 4% di rialzo, e poi Mediolanum più 2,80, UbiBanca più 2, Intesa San Paolo più 1,5, Banco Popolare più 1,20, Eni più 1,20%, Mediobanca più 1,1, Generali più 1,1%. Fiat è salita dello 0,60, buoni dati sul mercato auto in Europa diffusi poco fa, più 10% a settembre, che porta al rialzo delle matricolazioni in Europa all'8,8%. Fiat ancora una volta fa meglio del mercato, più 15,6%, e nei primi 9 mesi più 14%. La legge finanziaria o la legge di stabilità, come si chiama adesso, le reazioni, intanto sentiamo cosa i vari passaggi li abbiamo ascoltati, ma insomma uno dei passaggi principali dell'intervista rilasciata questa mattina dal Presidente del Consiglio Renzi a Radio 24 nel programma Attenti a noi due, quindi Alessandro Milan e Oscar Giannino, sull'Europa che non è d'accordo sul tipo di tasse che Renzi va a tagliare. Bruxelles non è il nostro maestro che fa l'esame, Bruxelles non ha nessun titolo per intervenire nel merito delle misure, può dare suggerimenti, consigli. La subalternità psicologica italiana è stata in questi anni particolarmente sviluppata nei confronti degli eurocrati. Oh, ma Bruxelles è il luogo nel quale ha sede un'istituzione a cui noi diamo ogni anno 20 miliardi di euro come Italia e da cui ne prendiamo indietro 11. Cioè Bruxelles non è il nostro maestro, noi a Bruxelles diamo ogni anno 9 miliardi netti di differenza tra ciò che diamo e ciò che prendiamo, e ci deve spiegare. Certo, ci deve aiutare, è una cosa bella, l'Europa è un grande valore, ma non è che ci deve dire qual è la tassa più giusta da tagliare. Bruxelles potrebbe anche bocciarla la legge di stabilità. Fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale quale, e se uno pare non cambia niente. Cioè, questo perché sia chiaro come funziona la legge. Se Bruxelles dice no, tu gli dici beh, peccato, sì, ma in questo caso non esiste, perché uno, siamo gli unici, siamo su 28 paesi tra i pochissimi che rispettano le regole. Siamo soltanto noi, classe politica italiana, che tutte le volte con fare tafazziano guardiamo all'Europa raccontando che in Italia l'Europa boccerà. Oh, ma noi siamo gli unici che stanno dentro, non soltanto il 3% ma il Fiscal Compact. Allora, adesso andiamo anche a Bruxelles dove c'è il nostro inviato Sergio Nava, però prima ci spostiamo a Capri, Bruxelles, mamma mia. Dove c'è l'altro nostro inviato Vincenzo Miglietta per la prima giornata di lavoro dei giovani di Confindustria. Vincenzo, buonasera. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, oggi devo dire che l'intervento di Marco Gai, che mi ha avuto ospite ieri, dei presidenti, è stato, sì, di plauso sulla finanziaria, ma non è che gliela abbia mandata a dire su quello che non è piaciuto alla legge finanziaria. Effettivamente è così, Sebastiano. Ricordiamo che il convegno dei giovani imprenditori qui a Capri ha come focus principale il mezzogiorno e come rilanciare il sud del paese, quindi secondo i giovani imprenditori sotto questo aspetto nella legge di stabilità poteva esserci qualcosa di più. Addirittura Marco Gai dice ci sono solo 150 milioni a fronte di una finanziaria da 30 miliardi. Sentiamo allora proprio questo passaggio. Lasciatemi chiedere, dove è finito il master plan per il sud annunciato ad agosto? ma soprattutto possiamo parlare di un master plan per il Sud senza avere ancora un piano industriale per l'Italia intera? È per questo che crediamo che un progetto di politica industriale, è per questo che chiediamo un progetto di politica industriale da 2 anni, che chiediamo di coinvolgere nella progettazione chi al Sud lavora e fa impresa e non solo le amministrazioni pubbliche, e che sia un vero shock positivo. Leggiamo invece che il master plan per il Sud sarebbe un insieme di misure che in tutto valgono 150 milioni di euro quest'anno, su una finanziaria che vale quasi 30 miliardi. Che non ci sono il credito d'imposta per i nuovi investimenti e ampliamenti, quello per la ricerca, i contratti di sviluppo, come invece ci aspettavamo. Così onestamente è troppo poco, lasciatemi dire, è quasi inutile. Soprattutto adesso che ci si presenta davanti un'opportunità importante, clausola investimenti richiesta all'Europa, cofinanziamenti dei progetti con i fondi strutturali, piano Juncker. Pezzi di un puzzle che, se fatto bene, questa volta può diventare il perno su cui far leva per il nostro futuro. Allora... Beh, come tu dicevi, Vincenzo, insomma, c'è una parte anche in cui diceva bene la legge finanziaria, però manca questa parte sul Sud. Poi c'è un passaggio, dice giù l'IRES, era importante, la priorità è ridurre le tasse sul lavoro aziende, non le tasse sui castelli. Arriveremo anche a questo, Vincenzo, però da Sergio Nava in collegamento da Bruxelles. Sergio, buonasera innanzitutto, ma ci sono reazioni alle dichiarazioni di Renzi questa mattina a Radio 24 sull'Europa e in generale da parte dell'Europa, o siamo sempre a livello informale? Più che dichiarazioni, diciamo, grande imbarazzo ovviamente in sala stampa, anche perché c'è stato un poco di fila di domande dei giornalisti italiani. Ovviamente erano i portavoce, non i commissari oggi presenti. Diciamo, si sono limitati a ribadire pochi concetti, però uno in particolare è chiaro. È stato detto: abbiamo le basi legali per esaminare le leggi di stabilità e intervenire sulle scelte economiche dei governi. Di fatto la Commissione dice: i nostri poteri ci sono, l'Italia li ha firmati, li ha sottoscritti in passato e quindi ora non può ritrattarli. Quindi esamineremo nei dettagli, daremo la nostra opinione e l'Italia dovrà avere una maggioranza qualificata per votarci contro se ci vuole rispedire la manovra identica come l'aveva presentata, altrimenti deve sottostare alle regole. Questo in modo molto diplomatico, io l'ho tradotto in modo meno diplomatico, ma in modo diplomatico il messaggio che arriva da Bruxelles. Ecco, nella sostanza però, Sergio, da quello che tu hai capito, questo è il problema della forma, cioè Renzi dice: noi facciamo la manovra, non c'è problema, gliela riportiamo uguale, è chiaro insomma che... Così, Bruxelles, cosa volete che dica? No, siamo qua a fare i passacarte, abbiamo gli elementi legali per incidere e intervenire sulla vostra manovra. Ma nella sostanza sta manovra? Nella sostanza resta il fatto che ieri il commissario Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, ha tirato una stoccata non da poco sulla tassazione, dicendo: noi veramente vorremmo che spostasse la tassazione più su proprietà e consumi, non alleggerendo il lavoro, e questo non ci pare l'abbiate fatto. Per il resto effettivamente è arrivata praticamente ieri, la Commissione ha detto: abbiamo oltre un mese di tempo ora per analizzarla, quindi diciamo le bocche su questo sono molto lucide, anche perché effettivamente di tempo non ce n'è stato. E lo stesso Juncker ieri l'abbiamo interpellato noi di Radio 24 e ha detto: attualmente non mi sto occupando della manovra italiana, quindi è ancora abbastanza presto. Di certo il commento che ha fatto ieri Dombrovskis è indicativo di una certa irritazione su alcuni aspetti della manovra. Allora, Vincenzo Miglietta, torniamo, grazie intanto a Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles, torniamo a Capri. C'è anche l'altro passaggio che dicevo, oltre che il Sud, sull'IRES, cioè i giovani di Confindustria dicono insomma: attenzione, la cosa più importante è ridurre, se ho ben capito, le tasse sul lavoro e imprese, lavoratori e imprese. Sì, è così Sebastiano, nel tagliare le tasse la priorità dovrebbe essere lavoro e aziende, hanno ricordato i giovani imprenditori. E poi un richiamo anche qui a Bruxelles: non possiamo aspettare un via libera da Bruxelles, ricordiamo che l'IRES, il taglio dell'IRES è legato anche all'eventuale concessione da parte dell'Unione Europea 02. Della flessibilità sul deficit. E tra l'altro poi Marco Gai, presidente dei giovani, ricorda anche: è strano che il fondo, eventualmente la clausola sui migranti, queste risorse per i migranti siano destinate proprio al taglio dell'IRES. In sostanza viene bocciata il taglio dell'IMU e della TASI sulla prima casa, le tasse andrebbero quindi tagliate per chi lavora ed è nelle imprese. Grazie, grazie anche a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Capri. Miracoloso questi due collegamenti, non si è sentito benissimo, non capita quasi mai. Facciamo i complimenti anche alla struttura tecnica di Radio 24 e soprattutto a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, Pietro Lacorte in regia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Un buon fine settimana soprattutto per chi lo dovrà passare lavorando. Radio 24, la passione si sente.